vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.15 e tramonterà alle 21.01. Sabato ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Cambio al vertice del CEVICUL, ente di certificazione vini e prodotti italiani di qualità. Il corsivo di Licio Damiani che oggi vi riproponiamo si intitola Laudata sia la spica nel meriggio. Che seminare in campo dopo questo lungo periodo di pioggia? Una serie di suggerimenti e valutazioni. Quanto deve durare in cantina la macerazione del pigiato? Dipende da che uve abbiamo e che vino vogliamo ottenere. Per la rubrica dei grandi alberi, oggi di scena le betulle delle valli del Natisone. Le mele sotto forma di frittelle nello spazio che dedichiamo alla gastronomia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Cambio al vertice di CEVQ, ovvero l'ente di certificazione vini qualità, che poi vedremo non certifica solo i vini. Al posto di Germano Zorzettic, storico fondatore e presidente per una quindicina d'anni, ora c'è Flavio Bellomo, presidente vini della Delizia di Casarsa. Innanzitutto, che cos'è CEVQ? Cosa certifica? CEVQ è un ente di certificazione che è nato nel 2009 grazie giustamente alla lungimiranza di Germano Zorzettic, principalmente per la certificazione dei vini di qualità, quindi tutti quelli che sono i DOC, i GT a livello regionale, e dopodiché la propria attività si è anche espansa su quella che è la certificazione agroalimentare del prodotto, quindi la copertura, diciamo, normativa di quella che è le certificazioni ministeriali e non solo, che vanno a tutelare il prodotto e il consumatore finale che va ad acquistare i prodotti. Quindi parliamo di vini DOC, parliamo di vini IGT, parliamo di prodotti biologici, parliamo di prodotti che hanno delle filiere di qualità sull'integramente prodotto e via dicendo. Chi si deve certificare e perché? Uno che vuole certificarsi ha bisogno di un ente terzo che vada a garantire quello che è il processo produttivo. Se uno vuole vendere ad esempio una bottiglia di vino che sia, se pensiamo alla nostra regione, quindi DOC Friuli, DOC Colli Orientali, eccetera, deve seguire un processo normativo che vada a garantire quello che è il percorso di lavoro fatto per dare al consumatore quello che serve, altrimenti non può dichiarare una denominazione. CEVQ è ente pubblico o una realtà privata? Un ente privata nata nel 2009 dopo una riforma ministeriale che vedeva prima le Camere di Commercio interessate in questi processi, è nata da una società fatta in parte da quelli che sono i consorzi di tutela del vino, in parte dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria. Se uno non è certificato sull'etichetta della sua bottiglia, oltre a dire vino di qualità, non può mettere altro, quindi... No, non può assolutamente mettere niente, altrimenti sarebbe una cosa fraudolenta, insomma. Lei ci diceva che non certificate solo il vino. No, assolutamente. Un po' tutto quello che è l'agroalimentare viene certificato, lo sa bene il consumatore quando vede nelle varie confezioni quelle che sono le varie dichiarazioni che il produttore certifica. Andiamo da qualsiasi prodotto alimentare, quindi andiamo dai seminativi al lattiero caseario, alla frutta e verdura, tutto quello che è il comparto agroalimentare. Tre gli step per certificare un vino. Chiaramente il vino è fatto in tre step, c'è la parte di campagna, quindi di uva, quindi certificazione del prodotto uva, poi c'è il prodotto di certificazione del vino e poi c'è la parte di bottiglia, quindi andiamo a coprire interamente quella che è la filiera nei vari step e nei vari operatori che intervengono in questo processo. Quante certificazioni fate all'anno? Noi copriamo solo nel settore vino circa un 2000 aziende e quest'anno, se non ricordo male, abbiamo certificato quasi 4000 campionature. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei Campi, Storia, Memorie e Leggende della Campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo Laudata sia la spica nel meriggio, in onda il 19 giugno del 1994. L'oro del frumento e dell'orzo si allarga nelle campagne, fulgido come il sole del solstizio d'estate. È la festa del solstizio, culminante nella leggendaria notte di San Giovanni e anche la festa della mietitura. Laudata sia la spica nel meriggio, è di tal purità che pare immune, sol nata perché l'occhio umano la miri, poetò d'Annunzio. Il mese di giugno veniva raffigurato dai pittori antichi come un giovane alato panneggiato da una veste trascolorante nel giallo. Una corona di spighe ne ornava il capo, nella destra teneva un granchio, segno del cancro, circondato da altre spighe, nella sinistra una cesta colma delle verdure e dei frutti del mese. E il giovane Trittolemo, inviato dalla dea Demetra agli uomini per ricompensarli dell'ospitalità offertale durante l'esilio, ne diffuse il dono riconoscente, una manciata di semi di frumento da spargere nei solchi. La vita così rinacque, resa splendida dall'astro oro seme immortale. Trittolemo era ornato di spighe e poteva identificarsi con Dioniso, il nume orgiastico dei misteri della rigenerazione, o con il dio egizio Osiride, ucciso e smembrato dal fratello, i brani del cui corpo avrebbero fatto nascere le spighe. «Gli dèi vivono in me perché io vivo e cresco nel grano che li sostenta», recitava alludendo a Osiride un testo sacro dell'età dei faraoni. Mito di morte e resurrezione, quello del frumento, sublimato nella teologia cristiana. Il Cristo spiga che risorge dopo la sua sconfitta nel mondo per la salvezza dell'umanità. Lo spirito del grano, secondo remote reminiscenze, permaneva nelle spighe tagliate per ultime e il mietitore che le aveva abbattute doveva essere sacrificato perché lo spirito potesse venire restituito alla terra. Mistero di rigenerazione perpetuato dalla memoria dei popoli. Il meteo delle ultime settimane sta mettendo in difficoltà le semine. Cosa si può ancora fare? I consigli bio di Cristina Micheloni. Continuano le piogge ed ormai conclamata un'altra stagione anomala per precipitazioni abbondanti e intense. Dopo un 22 di siccità estrema, un 23 caldo e piovoso, non sempre, con eventi meteo estremi, se ormai gli scettici del cambiamento climatico sono rimasti in pochi, è ancora difficile accettare che il tratto principale del cambiamento è l'imprevedibilità e prepararvisi non è affatto facile. Vista la prospettiva di chi fa il contadino, significa decidere che cosa seminare, piantare e coltivare senza avere temperature o precipitazioni medie a cui fare riferimento, cosa che comprensibilmente provoca non solo incertezza, ma estrema frustrazione. Vero che ci sono i fondi per le emergenze, che le assicurazioni si stanno diffondendo anche in agricoltura, però perdere il raccolto o non riuscire a fare i lavori come si dovrebbe non predispone all'ottimismo. Non è un bel lavorare e la sostenibilità economica dell'azienda è appesa a un filo, eppure sottile. Per andare al concreto di queste settimane, che cosa fare se non si è riusciti a seminare le colture primaverili estive a causa delle piogge e ci andranno ancora un bel po' di giorni prima che il terreno si asciughi a sufficienza per poter entrare in campo? Per il girasole ormai i tempi sono scaduti, per il mais anche, a meno che non si pensi a qualche varietà a ciclo breve per uso alimentare. La soia è la coltura più flessibile in termini di data di semina, quindi ce la si fa ancora e anche con un buon agio. Però per molti sarebbe la stessa scelta dello scorso anno e probabilmente anche di quello precedente. E al di là dell'incompatibilità con le normative del bio, la monocoltura di soia senza rotazione costruisce nel suolo non pochi problemi fitosanitari e seleziona le erbe infestanti più complesse da gestire. Ci sarebbero anche altre colture da considerare, come ad esempio il sorgo, che può ben sostituire il mais nelle razioni di polli, suini e bovini. È assai più semplice da coltivare, meno esigente e più flessibile in termini di data di semina. Detto in altro modo, ce la possiamo ancora fare a seminarlo. Il problema del sorgo è però che o ve lo usate nel vostro allevamento o non si trova chi se lo compri. Intendo che mancano i centri raccolta, stoccatori o mangimisti con la mentalità flessibile quanto quella del sorgo e che comprendano come se l'agricoltore deve adattare le proprie pratiche di conseguenza al clima che cambia, pure il sistema agroalimentare dovrebbe andare di pari passo e adeguarsi. Il peso dell'incertezza e delle difficoltà nel fare agricoltura in un clima imprevedibile rimangono invece solo sulle spalle degli agricoltori. Ci sono anche altre colture last minute, come il grano saraceno, il miglio, qualche legume da granella estivo, come le varie vigne, intendo il fagiolo dall'occhio, il fagiolo mungo, o anche un fagiolo classico, un borlotto, però qui la coltivazione è un po' più complessa, o meglio, richiede delle attenzioni in più. Inoltre, il successo produttivo è legato all'andamento dei mesi a venire. Se ci sarà un'estate asciutta e un bell'autunno non piovoso va tutto bene, se inizia a piovere a settembre il risultato è a rischio. Per il fagiolo poi le temperature in fioritura, se troppo elevate, sono un fattore critico. Di nuovo, quindi, incertezza climatica e, come per il sorgo, difficoltà a trovare, dopo la fatica di coltivare e raccogliere, chi possa essiccare, pulire, selezionare, conservare e pagare adeguatamente. Vero che si può sempre far da sé e c'è chi lo fa, però non è lavoro per tutti. Se da un lato diversificare in agricoltura è più che mai obbligatorio, dall'altro tutte le strutture che operano nel post-raccolta non sono affatto pronte a collaborare con gli agricoltori che sono disposti a farlo. Qualcosa di simile si deve dire anche per la maggior parte dei consumatori, che fa fatica a rivedere le proprie abitudini, a imparare a leggere l'etichetta, almeno per la provenienza, e a comprendere che spendere troppo poco nel cibo significa che il conto lo salda poi comunque con la salute, con la qualità dell'ambiente in cui vive, il benessere proprio delle persone che vivono nella stessa comunità o in comunità lontane, le condizioni di vita degli animali allevati. La durata della fermentazione è connaturata al vino che si vuole ottenere, alle uve che abbiamo, come ci spiega oggi il professor Roberto Zironi. La durata della macerazione dipende, una volta verificate le caratteristiche della materia prima, dal tipo di vino che si vuole ottenere. Nella prima metà del secolo scorso la macerazione si effettuava anche in tini aperti, ma il grande contatto del cappello di vinaccia con l'aria favoriva lo sviluppo di batteri acetici e obbligava il vinificatore ad attuare delle macerazioni brevi. Oggi disponiamo di vasche di macerazioni chiuse e il controllo dell'arreggiamento durante il rimontaggio. I sistemi di controllo della temperatura e l'uso opportuno dei coadiuvanti ha permesso di prolungare la durata della macerazione e di conseguenza numerose tipologie di vino presentano oggi una maggiore concentrazione tannica e i grandi vini da invecchiamento sono prodotti con macerazioni di diverse settimane. Nelle prime due settimane, in concomitanza con la fermentazione alcolica, la concentrazione tannica del vino, legata principalmente all'estrazione di questi componenti dalla buccia, aumenta progressivamente. A partire dalla terza settimana si ha un rallentamento dell'incremento della concentrazione tannica, aumenta l'estrazione di tali composti dai semi, ma per la contemporanea solubilizzazione dei polisaccaridi della buccia e dei lieviti, le sensazioni organolettiche tanniche complessive si attenuano, si ammorbidiscono, migliorando le caratteristiche gustative. In funzione della durata si possono distinguere tre tipi di macerazione. Macerazione breve di 3-4 giorni. La separazione delle bucce dal mosto, vino, chiamato svinatura, si effettua quando il vino contiene ancora gli zuccheri fermentescibili. Con questa tecnica si producono vini leggeri, fruttati, morbidi, da consumare giovani. È una tecnica obbligata quando l'estrazione dei tannini porterebbe a vini troppo aggressivi. Macerazione di 7-8 giorni con svinatura al termine della fermentazione alcolica. In questo periodo si ottiene la massima estrazione della componente colorante rossa ed una moderata estrazione di tannini. È una procedura raccomandata per produrre vini di qualità con un periodo di commercializzazione di alcuni anni. Macerazione di 2-3 settimane oltre. È una procedura applicata nell'elaborazione di vini destinati a un lungo invecchiamento e permette di apportare al vino il contenuto tannico necessario alla giusta evoluzione del colore. Da questo punto di vista si considera ottimale un rapporto antociani-tannini estratti di almeno 1 a 4. Prima dell'invecchiamento i vini giovani devono avere una buona morbidezza e note fruttate. In definitiva, regole univoche sono difficili da stabilire. La durata della macerazione deve essere adattata al tipo di vino che si vuole ottenere ed in egual modo compatibilmente alla composizione delle uve. Da questo punto di vista risulta strategica l'operazione di valutazione sensoriale delle uve alla vendemmia. Le caratteristiche positive dell'uva si dovranno ritrovare nel vino. Quelle negative non dovranno essere estratte. Con Dario Di Gallo, ispettore del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, restiamo nelle valli del Natisone. Dopo il castagno parliamo delle betulle. Nella puntata precedente abbiamo descritto i grandi castagni delle valli del Natisone, mentre oggi prenderemo in considerazione un altro elemento fondante del paesaggio vegetale di questi luoghi, le betulle. La betulla è un albero familiare a tutti, spesso presente nei nostri giardini vicino alle case. È molto facile da riconoscere. La sottile e luminosa corteccia bianca, i rami principali ascendenti e quelli secondari penduli e sottili. Le foglie leggere e molto mobili al vento, dal verde chiaro della primavera, virano al giallo oro autunnale, donando alla specie una particolare eleganza. Le dimensioni non sono mai quelle richieste dallo standard monumentale, in quanto la specie ha un ciclo vitale breve, ma la sua forma e la spettacolarità dei colori, soprattutto negli esemplari isolati, ruba l'occhio e ci porta a considerare questi alberi come speciali. Gli esemplari che vogliamo descrivere oggi si trovano lungo la celeberrima strada denominata la Panoramica di Drenchia, notissima ai cicloturisti e un vero compendio visivo sulle valli, correndo in quota, e garantendo numerosi e notevoli punti panoramici anche sui monti della vicina Slovenia, che concorrono superbamente a completare la boscosa vista generale. Partendo dalla rocca del santuario di Castelmonte, si prosegue verso est lungo la strada turistica con meta Drenchia, in direzione della solitaria chiesetta di San Nicolò, nei pressi della quale si trova facilmente parcheggio. Il pendio prativo sotto la strada, fra la chiesetta e la borgata di Jajnik, è costellato da cospicui castagni da frutto e splendide betulle, a cui fa da sfondo il monte Matajur. Uno degli esemplari, facilmente raggiungibile anche partendo dalla fontana al centro del paese di Jajnik, salendo per circa 300 metri, supera i 23 metri di altezza, con una circonferenza di 250 centimetri ed un'età che supera ormai i 70 anni. Ed il luogo, sfalciato e ben tenuto, invita alla sosta. Le mele sono un prezioso ingrediente anche in cucina per svariati utilizzi e ricette. Oggi Roberto Zottar ci propone le fritulis di Miluccio. An apple a day keeps the doctor away. Cioè una mela al giorno leva il medico di torno, è lo slogan coniato nel 1904 dall'americano professor Stinson. E non è solo saggezza popolare, né tantomeno un falso mito. In Friuli i primi produttori di mele furono i romani. Avevano intuito che le condizioni ambientali e climatiche erano ideali per produrre una mela di qualità e crearono la prima varietà autoctona friulana che fu chiamata mela maziana dal nome del suo selezionatore. Caio Mazio era un grande cultore di arboricoltura e tra i primi protagonisti della fondazione dell'agro aquileiese. Il prodotto arrivava fino a Roma e si distingueva per la sua apprezzata qualità, tanto che le mele maziane furono notate e citate nei loro scritti da Columella e Plinio il Vecchio. Vado subito in cucina con le fritulis di Miluccio, frittelle di mele, piatto regionale per eccellenza per il loro impiego e modo semplice e veloce per utilizzare le mele in eccesso nelle case contadine. Le frittelle de poma sono una ricetta che risale al periodo medievale e già contemplata nel libro d'arte coquinaria del maestro Martino da Como, cuoco del patriarca di Aquileia, della seconda metà del XV secolo. Dolce diffuso in Europa e nel Nord America, si prepara immergendo delle fette di mele in una pastella per poi friggerle. Possono essere insaporite a piacere con zucchero, cannella, vaniglia, ma anche rum. In Germania le Apfelküchle sono aromatizzate con birra, in Nord America le Apple Fritters hanno una glassa di zucchero, in Olanda le Apple Beignet possono anche contenere pasta di mandorle, mentre in Carnia le fritulis di Lops si fanno con mele selvatiche. Per fare delle frittelle come le faceva Gianni Cosetti, sbucciamo e detorsoliamo 4 mele acidule e tagliamo la fetta grosso un dito. Mescoliamo un etto di farina con 2 tuorli, 2 cucchiai di grappa, una bustina di lievito per dolci e la buccia grattugiata di un limone. Aggiungiamo 1 decilitro di latte e facciamo una pastella liscia e densa dove immergeremo una alla volta le rondelle di mele che friggeremo poi, fino a doratura, in olio o burro chiarificato caldi. Serviamole calde, spolverizzate di zucchero a velo, magari accompagnate con una pallina di gelato alla crema e un bicchiere di piccolit. Buon appetito! Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 21,70 e 21,90 euro il quintale IVA esclusa. Non quotati invece soia, orzo e frumento. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 1,10 euro il quintale. Movimento nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,35 e 3,95 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,75 e 3,35. Prezzi in rialzo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi che vengono quotati fra 7 e 7,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 5,40 e 6 euro, i frisoni tra 2,20 e 2,70, i bruni alpini tra 1,70 e 2 euro. Il mercato Poli Suini invece ha confermato la tendenza a ribasso, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,66 euro il chilo IVA esclusa. I grassi da macello si quotano a 1,85. Nel comparto dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48,50 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel comparto degli avicunicoli ritorna il quadro attivo e i poli a terra vengono quotati da 1,24 a 1,28 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,64 a 1,66, le faraone da 3,12 a 3,20, i conigli oltre 2,5 kg da 2,05 a 2,11, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'Arba, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Dopo un maggio con piovosità da record, anche nella prima parte di giugno temporali e piogge sono state l'elemento dominante del tempo in regione. La presenza quasi costante di zone depressionarie tra il centro Europa e l'area alpina ha determinato instabilità e le fasi anticicloniche sono state molto brevi e poco significative. La giornata più perturbata è stata il 10, quando alla sera, nella zona di Udine, un sistema temporalesco ha portato piogge intense e venti forti che hanno battuto anche molti alberi. Nei 2-3 giorni successivi, rovesci temporali si sono riproposti, seppur in modo meno diffuso. Le temperature si sono stabilizzate a valori inferiori rispetto alle medie del periodo. Si è arrivati così a metà giugno, con un tempo ancora dalle caratteristiche primaverili, più in linea con quanto accadeva fino a 30 anni fa, quando in regione il sesto mese dell'anno aveva caratteristiche più primaverili che estive. Dall'inizio del XXI secolo, infatti, si assiste frequentemente a prolungate fasi calde e secche che iniziano già da fine maggio. Si deve notare che da inizio anno la piovosità in pianura sia dell'ordine degli 800-1000 mm, decisamente elevata, e tale da mettere in difficoltà le operazioni in campagna, visti i terreni che sono risultati per settimane saturi d'acqua. Se allarghiamo lo sguardo agli ultimi 12 mesi, da metà giugno del 2023 ad oggi, si può rilevare come il cumulato totale di pioggia in regione sia stato decisamente superiore alla norma, con valori da record in varie zone. Questa situazione è radicalmente opposta a quanto avveniva solo un paio d'anni fa, quando la forte siccità aveva messo in crisi tutto il sistema agricolo. Da domani l'anticiclone si consoliderà sul Mediterraneo, portando progressivamente tempo più stabile e caldo anche sulla nostra regione. Domani, su pianura e costa, il cielo sarà in prevalenza sereno. Sulla zona montana, cielo in genere variabile, con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, e in Carnia, dove non si esclude qualche ultimo rovescio temporalesco. Venti a regime di brezza e temperature massime in aumento. Da martedì a giovedì avremo cielo in genere sereno, con innocua locale nuvolosità pomeridiana sui monti, venti di brezza e temperature che aumentando progressivamente supereranno i 30 gradi per toccare i 32-33 venerdì. Venerdì però il passaggio di aria più fresca in quota porterà dei temporali. Nel fine settimana potrebbe rimontare l'anticiclone con tempo bello e stabile e decisamente caldo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se prima di San Vit, lis mosches volin a tor, varin l'estat, plui calde dal for, ovvero se prima del giorno di San Vito, il 15 giugno, le mosche volano in giro, avremo l'estate più calda del forno. Coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.